Bentrovate e bentrovati sulle frequenze di Radio Città Fugico. Siamo in diretta con Irene Musmeci, responsabile del marketing per l'Europa di Mubi, regista e produttrice teatrale. Intanto, buongiorno Irene. Buongiorno, buongiorno a tutti. Irene è anche artefice di questo meraviglioso regalo di 30 giorni di prova gratuita per gli ascoltatori e le ascoltatrici della piattaforma Mubi. E quindi Irene ti chiedo subito che cosa sia questa piattaforma e cosa possiamo trovare al suo interno. Mubi è una piattaforma di streaming globale disponibile in 190 paesi del mondo, specializzata in cinema d'essai e cinema internazionale di tutti i tempi, cioè da film storici a film più contemporanei possibile. Di base il nostro ufficio è a Londra, però stiamo anche espandendo molto verso New York, Kuala Lumpur e Mumbai, e stiamo proprio in questo momento prendendo un ufficio a Bologna per il nostro lavoro in Italia. È nata dall'idea del nostro fondatore e CEO Efe, che si era ritrovato in viaggio in un caffè a Tokyo nel 2007 e gli era venuta voglia di guardare In the Mood for Love, il film di Wong Kar-wai, che è uno dei grandissimi capolavori del cinema moderno, e purtroppo non riusciva a trovarlo disponibile. Ha pensato: com'è possibile in questo mondo globalizzato in cui esiste internet che io non possa guardare questo film bellissimo in questo posto, in questo momento? E da lì gli è venuta l'idea di creare questa piattaforma. Quando Mubi è partita era anche come un grossissimo social network per gli amanti del cinema, si chiamava The Auteur, ed è infatti così anche che io sono entrata in questo mondo meraviglioso, perché mi interessava fare tante conversazioni con cinefili che avessero interessi magari un po' fuori dal cinema, diciamo più mainstream, che si trovava poi a suo tempo. A oggi Mubi è la più grande comunità di cinefili al mondo online. Abbiamo circa 11 milioni di membri in tutto il mondo. E quindi, oltre a vedere i film, su Mubi ci sono tante persone che si scambiano recensioni, pareri, creano liste, leggono notizie sul cinema contemporaneo, perché noi abbiamo anche una pubblicazione che si chiama Notebook, che è al momento completamente in inglese, però che tratta di quelle che sono tutte le news e, diciamo, le conversazioni che hanno luogo in questo momento nell'industria del cinema internazionale. E in più ci sono video essay, ci sono tanti tipi di cose, creiamo playlist musicali dalle colonne sonore del mondo, quindi tutta una serie di attività collaterali a quelle che sono semplicemente essere una piattaforma di streaming. Eh sì, è un bellissimo contenitore perché appunto oltre ai film forse è l'unica piattaforma davvero a fornire anche recensioni e scambi di idee, opinioni, interviste. Ci puoi anticipare qualche titolo che in questi giorni i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici potranno trovare all'interno di Mubi, potranno iniziare a guardare? Allora, sicuramente vorrei parlare di un film che esce proprio oggi, Sì. che si chiama Dead Pigs, ed è l'esordio di Cathy Yan, cioè la regista di Birds of Prey. È un film molto interessante perché è un film che lei ha fatto in condizioni indipendenti e molto creative, che mi ricorda tantissimo quei film collettivi corali tipo Magnolia, Sì. i film vecchissimi di Robert Altman. È un film che è tutto ambientato nella Shanghai contemporanea, dove ci sono vari personaggi le cui vite si intrecciano in modi complessi e difficili da spiegare, sullo sfondo di una tragedia durante la quale migliaia di maiali morti si ritrovano a galleggiare sul fiume che collega tutta Shanghai. Quindi vi lascio col mistero e spero l'appetito di Di andare a che, scoprire questo film, certo, di che cosa che succederà? esce. E i Esatto. criteri con i quali vengono selezionati questi film da Mubi e quali sono? Allora, diciamo che per noi la qualità è la cosa principale. Se un film cattura la nostra attenzione e pensiamo che sia interessante, è sicuramente dove parte la scintilla dei nostri curatori. Le programmazioni in tutti i paesi diversi sono curate da un team di programmatori e curatori che si occupano anche di, diciamo, connettersi alla cultura locale e alla storia del cinema locale. Quindi studiano esattamente che cosa stanno guardando le persone nei vari paesi e che cosa potrebbe essere interessante. Introduciamo un film nuovo ogni giorno, quindi scoprendo la piattaforma di Mubi veramente c'è un livello di scoperta di cinema assolutamente globale e di tutti i tipi, tutti i generi possibili e immaginabili, però per noi la cosa più importante è proprio la curatela umana, cioè ci sono delle persone che hanno selezionato questo film per voi che lo guardate, per cui qualsiasi film trovate su Mubi è un film che noi o qualcuno del nostro team ha pensato potesse essere interessante. Quali, se puoi anticiparci, insomma, quali sono i progetti futuri, almeno per quanto riguardano l'Italia o l'Europa, di Mubi, di questa grande cineteca d'autore? Allora, i progetti futuri sono tantissimi, sono ancora un po' misteriosi, nel senso che ci sono tante cose molto belle che succederanno in Italia e nel mondo, di cui non posso immediatamente parlare, certo, perché siamo molto in fase di costruzione, però diciamo che abbiamo avuto una risposta incredibile dall'Italia, che è uno per noi dei territori cinematografici più interessanti, quindi speriamo di collaborare con tutti quelli che sono i grossi produttori, filmmaker, distributori, sales agent, e soprattutto anche con i cinema italiani, per portare il programma di Movie, ma anche poi per lavorare con tutti quanti e fare parte proprio di un contesto di industria globale. Certo, grazie mille Irene, veramente grazie infinite per questo prezioso contributo e anche per questo meraviglioso regalo di 30 giorni di prova gratuita di Movie a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Grazie a voi e buona giornata.